Sheriff, cominciamo magari dalla situazione attuale nel contesto egiziano, gli ultimi scontri che ci sono stati, no? Domenica scorsa. Se ci puoi dire tu, insomma, che cosa si sta producendo adesso in Egitto, visto che ti trovi al Cairo. Allora, sicuramente è una situazione di grande tristezza. Vedo tutti per strada che sono tristi da quella domenica notte. Non si aspettava una cosa del genere e nessuno capisce il perché e nessuno capisce che è successo. Allora, una situazione ambigua. Chi ha sparato contro chi e perché sono così tanti morti? Nessuno capisce, non ci sono risposte ancora per niente. L'unica cosa è che il governo ha fatto una commissione d'inchiesta, però il popolo è sicuramente molto amareggiato, triste per quello che è successo. Ho capito, ma da questo punto di vista abbiamo visto delle manifestazioni di solidarietà tra popolazioni o comunque copte e tra musulmani, quindi sembra in realtà che il settarismo sia quasi un falso problema. Tu cosa ne pensi? Il Non ho sentito l'ultima frase, scusa. settarismo, ovvero il frazionamento tra differenti comunità che avevano portato anche a degli scontri a gennaio, ne avevamo parlato assieme, no? Sembra quasi un falso problema, tu che cosa ne pensi, sceriffo? Sì, no, l'ultimo incidente, quell'ultimo evento di domenica non è nato sicuramente da questo. Anzi, tutt'altro, manifestanti accusano i soldati dell'esercito che erano intorno alla sede della TV dove c'era la manifestazione, la contestazione e viceversa. Poi non dimentichiamo che c'è stato un errore, questo molto importante dirlo, che la TV egiziana domenica notte ha messo un ticker, titolo che se sono stati un soldato morto, un ufficiale morto dell'esercito, tre soldati feriti da fuoco sparato da manifestanti copti. Ah, ho capito. Questo molto pericoloso, perché quando mai, quando succede proprio sparatoria, siamo certi chi ha sparato o di che colore è? Nessuno certo. Come mai la TV d'Stato mette questo titolo per ore, ore e ore, come se stanno scaldando la situazione della tensione religiosa? In questo senso il popolo è stato molto più intelligente, civile, tollerante da chi guida i mass media ufficiale, che non ci sono stati scontri causati da questo titolo. Forse qualcuno ha sicuramente sceso per strada, ha manifestato qualche rabbia causata da quel titolo. Ha sicuramente questo successo. Però non ci sono stati scontri fatali causati da quel titolo. La domanda è: ma come mai in una situazione del genere che gli scontri c'erano ancora, nessuno né nel Consiglio Supremo dell'Esercito né nel governo, nessun responsabile di questo paese oggi, che sicuramente tutti guardavano la TV, non hanno visto che c'è un messaggio che poteva veramente incendiare il paese, perché nessuno accetta sicuramente che qualcuno spara contro l'esercito del paese. Allora questo è ovvio, tutti si scaldano per un'informazione del genere, soprattutto se la sparatoria è causata da una minoranza nel paese. Immaginate con me se il titolo sulla RAI è stracomunitari che sparano contro l'esercito italiano, sicuramente non sarà per niente piacere a nessun cittadino italiano. sicuramente copti egiziani non sono extracomunitari, sono cittadini a tutti gli effetti, però voglio dire minoranza, ok? Allora sicuramente non fa piacere a nessuno. Questo è stato molto, ma molto, ma molto pericoloso. E la domanda che esce da questo messaggio strano dalla TV egiziana, ma è stato voluto da chi? Chi ha dato l'ordine di mettere in onda un messaggio del genere? Un'altra domanda, ma il Consiglio Supremo dell'Esercito chi fa da capo di Stato, da presidente, da Parlamento, da forze dell'ordine, ha in mano tutto il paese. Certo, emerge pure dalle manifestazioni che si sono prodotte dopo domenica sera un malcontento costante verso il Consiglio Supremo delle Forze Armate, in particolare del ministro, dell'ex ministro della Difesa. Questo malcontento sembra sempre più generalizzato in Egitto. Sì, questo è vero, perché la domanda è: loro hanno voluto che questa situazione si scaldasse così? Per quale scopo? Che cosa guadagnano loro o guadagna il paese per un incidente del genere? Uno, se non hanno voluto, come mai stanno commettendo errore dopo errore, se vogliamo chiamarle errore? Un messaggio del genere della TV di Stato si considera un errore o una cosa veramente voluta? Perché lasciare un messaggio del genere per ore e ore, sto parlando di 4 ore di questo titolo sulla TV, non ne sto parlando di un flash che dopo 5 minuti qualcuno si è accorto e l'ha tolto. Allora, queste sono le due domande che gli egiziani non hanno risposto, perché se hanno voluto creare tutto questo o scaldare la situazione, per quale motivo? Che cosa guadagnano? Vogliono, e allora qua mettiamo l'ipotesi, vogliono cancellare le elezioni? Ricordiamo che fra qualche giorno se aprono le iscrizioni per le elezioni parlamentari, allora vogliono spostare la data? Vogliono cancellarla proprio? Vogliono riattivare un'altra legge di sicurezza straordinaria? E fino a quando? E che cosa guadagnano fra tempo loro come Consiglio Supremo e il paese? E poi quando avrà questo paese la stabilità? Ho capito benissimo. Senti, sceriffo. Hanno risposto. Sceriffo, scusami, un'altra domanda. Se vi è un malcontento comunque nei confronti dell'esercito, vi sono però alcune forze politiche che ultimamente sono scese a patti con l'esercito per cedere e per legittimare anche, no, il ruolo dell'esercito nel processo di transizione egiziano. C'è quindi una, come dire, una distanza tra la popolazione e il proprio sentimento contro l'esercito e alcune forze partitiche? Alcune forze che sono, nominiamole, nome e cognome, sono giusto. I musulmani e i salafiti, sono quelli islamici, e poi alcuni di quelli partitini piccolini che non contano nulla nella strada, non esistono nella strada, non, per niente, allora non possiamo darle considerazioni. Fratelli musulmani stanno giocando un ruolo sempre con l'esercito, una volta siamo amici, una volta siamo amici, una volta criticano, una volta fanno finta che non hanno visto, non hanno sentito, allora evocano sicuramente per il loro interessi. Però altre forze politiche, quelle che stanno per strada come sia partiti liberali sia partiti di sinistra, allora in questo caso anche tutti e due si sono messi insieme e sicuramente hanno lo stesso giudizio verso il Consiglio Supremo, soprattutto dopo i 20 di domenica. Effettivamente alcuni partiti hanno deciso di boicottare le elezioni che si terranno il 28 novembre, no? Chi sono? Io avevo sentito il Partito Socialista Rivoluzionario, la coalizione di sinistra anche aveva detto in un comunicato qualche giorno fa che avrebbe boicottato le elezioni. Questa è un'informazione che avevo ricevuto 4 giorni fa. No, secondo me potrebbe essere una reazione al caldo che non credo, o spero che non sarà così. Ho capito. Un'ultima domanda, Sheriff. Cosa accanto a questi scontri, diciamo, interconfessionali, o meglio, prima di questi scontri, vi era stata in Egitto una lunga fase di scioperi e di mobilitazioni, no? Penso al sindacato degli insegnanti, e sono ancora in corso. Ci puoi dare qualche informazione al riguardo? Sì. Allora, ti ringrazio per questa domanda, perché la vera forza politica oggi che c'è in Egitto sul terreno proprio sono gli operai. Gli operai stanno facendo un lavoro magnifico, gli operai stanno veramente cambiando e costringendo questo paese a cambiarsi. Ultimamente il 21 settembre c'è stata una sentenza dal Tribunale di Stato cancellando 3 contratti di privatizzazione che avevano venduto 3 fabbriche grossissime in Egitto, e dopo una lunghissima battaglia, molto lunga, c'è stata questa sentenza che è una vittoria enorme, ma ancora la battaglia continua. Questo ha dato una forza a tutti gli altri operai che stanno lottando sia per i diritti normali sia contro la privatizzazione, che veramente ha stroncato il diritto dell'operaio. E oggi viviamo un giorni di contestazione, di manifestazione, di scioperi giornalieri. Non dimentichiamo anche che quelli del trasporto pubblico avevano fatto un sciopero che ha durato quasi 3 settimane. Allora hanno messo in ginocchio veramente il paese. E gli operai e nuovi sindacalisti indipendenti stanno veramente facendo una battaglia forte anche perché l'operaio esiste in tutte le case. Non c'è una famiglia che non ha, tranne la classe alta, non c'è una famiglia che non ha un operaio dentro la famiglia. Voglio dire che questa lotta sta diventando più larga. Io sono stato con questi operai l'altro ieri in una manifestazione davanti alla sede del governo, ho intervistato alcuni di loro e per la prima volta nella mia esperienza sono stato ignorante di questa realtà, che l'operaio egiziano è così cosciente dei suoi diritti molto più di tutti i colti politici in questo paese. Assolutamente sì, infatti ne abbiamo parlato anche negli scorsi mesi di un processo importantissimo di costruzione di sindacati indipendenti, no? Che sta minando alla base il controllo che il regime aveva sul mondo del lavoro, no? Si sono ancora oggi, insomma, importantissime iniziative da parte del sindacato indipendente degli insegnanti, dei medici. Quali sono le prossime iniziative che tu puoi ricordarci comunque? Allora, dopo quella sentenza, allora ci sono nuovi scioperi in 2 grandissime fabbriche vicino a Alessandria. Quali sono? Puoi dircele? Una si chiama La Merea e l'altra, scusami, ho dimenticato adesso il nome. Ma la cosa importante è che anche operai che lavorano nelle fabbriche private, che sono nate private, stanno mettendo insieme agli altri del statale nel sindacato nuovo. Allora questo vuol dire riunire le forze dell'operaio in Egitto. Poi c'è un fatto molto importante: qualcuno sta criticando questo movimento dell'operaio dicendo così gli investimenti scappano del paese. Non è vero, perché altre fabbriche non hanno vissuto ancora, non hanno vissuto non anche un'ora, un minuto di sciopero. Perché? Perché i proprietari della fabbrica hanno mantenuto i diritti dell'operaio. Allora l'operaio non è che uno matto che si sveglia la mattina per fare un sciopero, l'operaio sciopera quando veramente i suoi diritti vengono negati. Però ci sono tantissime fabbriche, quelli del cemento, ad esempio, dove Italia, c'è un'azienda italiana molto grande, Italcementi, che ce l'ha qua, 4 fabbriche di cemento in Egitto, non ha superato nessuno, vuol dire che stanno bene gli operai lì, allora auguriamo che rimarranno in condizione buone, che non avranno bisogno del sciopero, ma dove stanno soffrendo gli operai scioperano, allora il sciopero degli operai è un diritto che non vuol dire per niente mettere paura agli investitori, no, dire all'investitore se voi lavorate, se voi rispettate la legge, le regole e date all'operaio quello che lo aspetta, l'operaio sicuramente lavorerà. Torneremo a questi 3 fabbriche che sono stati tornati ad essere statali dopo quella sentenza. Sono stato la settimana scorsa in una festa in una città a 100 km dal Cairo, dove c'è una fabbrica del genere. L'operai già negli ultimi mesi, durante questi grandissimi scontri con il proprietario, hanno fatto una commissione e guidano loro la fabbrica, e la fabbrica durante questi mesi non ha smesso mai di produrre, mai. Allora vuol dire che l'operaio è la prima persona che protegge la produzione, e questa è una cosa bellissima. Vi sono comunque dei fenomeni quindi di auto-organizzazione che stanno, sì, diciamo, portando, costringendo lo Stato egiziano ad una diciamo politica di, come dire, di ristatalizzazione di alcune imprese, o comunque sociale più giusta, una politica giusta. Non dimentichiamo anche quelle che sta succedendo in America a Wall Street, o quello che è successo a Wall Street. Sì. E qua ci mettiamo tutte e due le cose insieme. Questo sistema neoliberista, questo sistema del mercato libero, dell'operaio, del cittadino che diventa proprio uno schiavo sia dello Stato sia del proprietario della fabbrica o dell'azienda, non funziona. Non ha funzionato né in America, non ha funzionato in Italia, non ha funzionato in Egitto. Perfetto, Sheriff, ti ringraziamo tantissimo per questa preziosa corrispondenza dal Cairo, e ci risentiremo comunque nelle prossime settimane per le mobilitazioni che appunto tu ci hai raccontato. Grazie. Grazie a voi.